thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch, we're just peel out the watch, we're. Ciao a tutte e ciao a tutti. E apriamo questa puntata con un saluto a Chiara, a cui va tutto il nostro affetto, a Chiara che è una compagna notab rinchiusa nel carcere di Rebibbia qui a Roma, e proprio per questo volevamo raccontarvi in apertura che domenica siamo state proprio al pratone di Rebibbia femminile per salutare Chiara e per salutare tutte le detenute rinchiuse lì dentro. Ed è stata una cosa, diciamo, prima di tutto c'erano tantissime compagne e compagne, è stato un presidio numeroso, partecipato, molto vivo, è stata un'occasione di forza, di consapevolezza, però una cosa ci ha colpito in particolare, insomma, ci siamo commosse per un motivo, per questo ve lo volevamo raccontare in maniera più precisa, perché quando siamo arrivate lì sul pratone di Rebibbia c'erano dei familiari delle detenute comuni che stavano dentro ed erano lì per salutarle, penso che lo facciano spesso, no? Come in tante altre carceri. E, però in particolare ci hanno colpito due, erano due giovani donne con una bambina e cercavano di farle vedere, di farla vedere a una detenuta che stava dentro e che rispondeva, eccetera eccetera. A un certo punto, quando noi abbiamo cominciato a arrivare, insomma, il presidio si è infoltito, loro guardavano con insomma interesse, perplessità, dicevano, insomma, si chiedevano chi fossero chi fossero tutte queste persone. Dopodiché man mano hanno capito, gli abbiamo spiegato e compagnia bella, insomma, erano stupefatte, contentissime, non cioè una gioia veramente, il fatto di pensare che ci fossero delle persone che si preoccupavano di chi stava rinchiuso lì dentro, che erano contro il carcere, si sono messe con noi a fare i cori, a strillare, hanno partecipato tantissimo. E poi anche altri familiari, poi siccome c'era il microfono aperto, hanno comunicato con l'interno. Insomma, vi volevamo raccontare questo perché è stata una cosa particolarmente commovente, oltre a ribadire il saluto affettuoso a Chiara e a tutte le detenute lì dentro. put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Ciao a tutte e tutti. Il palinsesto di questa trasmissione sarà improntato sulla prima parte, in cui vi parleremo del coordinamento verso l'8 marzo, ovvero l'iniziativa che faremo dal titolo Questione femminile o oppressione di genere. E poi avremo la parentesi di Elisabetta dal titolo Il sapere è politico, e infine l'approfondimento di Dennis dal titolo Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, verso la fine delle politiche della rispettabilità. Allora, la prima parte sarà su una delle tappe del nostro percorso verso l'8 marzo, che diciamo, vi facciamo un attimo un riassunto. È cominciato con la manifestazione insieme a altre realtà davanti al CIE di Ponte Galeria, perché abbiamo improntato questo 8 marzo sulla necessità di spezzare la normalità. Spezzare la normalità in cui ci costringono, in cui costringono le nostre vite, in cui costringono anche le nostre lotte. E il CIE è uno dei momenti molto alti di controllo sociale, quindi siamo andate davanti al CIE di Ponte Galeria per spezzare la normalità dei CIE, perché nessuna dica non pensavo, non sapevo, non credevo. Dopodiché la seconda tappa è stata la settimana di mobilitazione contro il TAB. E perché abbiamo scelto di essere partecipi, al di là della partecipazione che diamo sempre, che abbiamo sempre nei confronti della lotta no TAV, ma di essere partecipi in questa settimana nel nostro percorso verso l'8 marzo? Perché una delle ragioni per cui la lotta contro il TAV della Valle, contro il TAV della lotta no TAV è avversata in maniera così forte da questo Stato, è perché pone il problema dell'autodeterminazione di una popolazione, no? È proprio questo che il sistema non intende permettere, perché nessuno e nessuno può osare decidere di sé e della propria vita. Cioè, al di là che è una devastazione ambientale, che è un'opera insensata, un'opera inutile, dannosa, costosissima, però è proprio il rivendicare da parte della popolazione il diritto di decidere del proprio destino, no? E questo, come femministe, ci riguarda direttamente, perché l'autodeterminazione è un momento fondante della nostra lotta. Throw its cover down, won't be again. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. Ooh. Allora, sabato 1 marzo alle ore 18 faremo questo incontro dal titolo Questione femminile o oppressione di genere. È un incontro separato comunque. Sì, incontro separato, ovvero la necessità del riconoscimento dell'oppressione patriarcale, il separatismo, dimensione di classe della lotta femminista. Un movimento non si limita ad avanzare lungo un percorso, ma lo traccia. La cartografia dell'oppressione e il disegno della liberazione non finiscono mai. Il separatismo è nato da una rottura teorica che rimette in discussione le precedenti analisi sulla subordinazione delle donne. Non si parla più di una condizione femminile, di cui tutti, donne e uomini, partiremo allo stesso modo, ma dell'oppressione delle donne. È uno sfruttamento che fa parte dell'ossatura del sistema, come la divisione in classi sociali. E la struttura sociale non può essere modificata dalla legge, al contrario, ne costituisce il fondamento, anche se rimane nascosto. Poi a seguire ci sarà una cena aperta a tutte e a tutti e la musica dal vivo delle Stacchi a Spillo, che è un gruppo di 4 musiciste che suonano ottoni. Sì, sono molto brave. Quindi tutto questo al porto, la sala da tè del Porto Fluviale, che si trova in via del Porto Fluviale 18. Allora, vi spieghiamo un attimo perché abbiamo scelto questa ulteriore tappa. Perché verso l'8 marzo abbiamo deciso di mettere sul tavolo una domanda come questione femminile o oppressione di genere. Perché guardandoci intorno, guardando e osservando e sentendo tutto quello che si muove nel movimento femminista e comunque nel sociale rispetto alle donne, ci sembra di essere tornate 50 anni indietro. Allora voi direte, in che senso? Nel senso che l'oppressione delle donne non è più posta in termini di patriarcato, è posta proprio in termini di questione femminile, come era posta fino agli anni 70, diciamo fino agli anni 50, perché già negli anni 60 si era cominciato a fare una ricerca diversa. E quando si parlava di diritti mancati, di equiparazione al maschile, diritto di voto che non c'era, di oppressione femminile nel senso che le donne non erano valorizzate o comunque erano sottomesse e soggette, e quindi sulla necessità che queste dovessero avere uguali diritti rispetto ai maschi. Problema del farsi carico della condizione femminile, della questione femminile, chiaramente interessava, avrebbe dovuto interessare tutti, no? Nella visione pre anni 70, uomini e donne, e tutti e tutte avrebbero dovuto preoccuparsi di migliorare le condizioni delle donne. Dopodiché c'erano visioni chiaramente differenti, perché questo approccio era di tutte le componenti che avrebbero voluto porsi e si ponevano come diverse, tipo come quella comunista, quella anarchica, i socialisti, no? Tutti quelli che si ponevano come sensibili al problema della donna. Però tutti uno per l'altro impostavano in maniera emancipatoria. Infatti adesso vi leggiamo un pezzettino di Auguste Bebel che vi chiarisce un attimo qual era per esempio la posizione in quegli anni di un pensatore rispetto alla condizione femminile comunista, chiaramente. Per la grande massa è completamente indifferente che qualche centinaio o qualche migliaio di donne delle travagliate classi medie, ottenuto un più alto grado di cultura, riescono a esercitare la professione medica o a far carriera negli uffici e che vi trovino una posizione buona o sufficiente ai loro bisogni. Questo non può portare nessun mutamento nella condizione complessiva delle donne. Con ciò non vengono eliminate né la tirannia degli uomini sulle donne, né la dipendenza materiale dell'immensa maggioranza delle donne, né di conseguenza la loro schiavitù, derivante dal moderno sistema matrimoniale o dalla prostituzione. Dunque la questione in questo modo non viene assolutamente risolta. Quindi il problema è prima di tutto emancipazionistico, no? E non c'è un'altra visione. L'unica visione che viene posta in maniera critica è quella che differenzia il percorso emancipazionistico delle donne, chiamiamole così, borghesi o delle classi medie, e di quelle proletarie. Per cui viene detto il problema dell'emancipazionismo e dell'accesso per esempio alle professioni non tocca assolutamente la condizione di sudditanza delle donne proletarie. Leggiamo un pezzetto di Clara Zetkin per farvi capire come quale potesse essere il pensiero di una donna rivoluzionaria in quel periodo. La questione femminile però esiste solamente in quelle classi della società che sono direttamente prodotte dal modo di produzione capitalistico. Per questa ragione non esiste questione femminile nella classe contadina, anche se la sua economia naturale si è molto ridotta e fa acqua da tutte le parti. Una questione femminile esiste invece in quelle classi della società che sono le creature più dirette del modo di produzione moderno. La questione femminile si pone dunque per le donne del proletariato, della piccola e media borghesia, degli strati intellettuali e della grande borghesia. Essa presenta caratteristiche differenti in base alla situazione di classe di questi gruppi. E quindi c'è una sensibilità rispetto al problema, nel senso che ci si accorge della differente situazione della donna nel sociale, però non c'è chiarezza rispetto a quello che si dirà poi, cioè alla struttura patriarcale della società. I want to find someone sincere who treat me like he talks, one good man. Oh. Comunque ci sono dei punti di analisi, per esempio di Clara Zetkin, che sono estremamente attuali, perché l'emancipazionismo è stato il ruolo dell'emancipazionismo è stato compreso ed è stato abbastanza chiaro fin dall'inizio. Non essendo però chiaro il problema della struttura patriarcale della società, questo problema dell'emancipazionismo era riferito soprattutto alle classi borghesi. Sì, La donna, praticamente la donna della classe media, questo è sempre un pezzo di Clara, sì, Zetkin, deve prima di tutto conquistarsi l'eguaglianza economica nei confronti dell'uomo, e lo può fare solamente attraverso due rivendicazioni: rivendicando uguali diritti nella formazione professionale e uguali diritti per i due sessi nella pratica professionale. Da un punto di vista economico, tutto ciò significa di fatto solamente la realizzazione della libertà di professione e della concorrenza tra uomo e donna. Il realizzarsi di queste rivendicazioni scatena un contrasto di interessi tra gli uomini e le donne della media borghesia e della intelligenza. Gli uomini si oppongono alle rivendicazioni delle femministe borghesi a causa della concorrenza delle donne nelle professioni libere. Non è nient'altro che timore della concorrenza. Tutti gli altri motivi usati contro il lavoro intellettuale delle donne, un cervello meno efficiente, la professione naturale di madre, non sono altro che pretesti. Questa lotta di concorrenza spinge la donna appartenente a questi strati a richiedere i diritti politici per abbattere ogni barriera che ostacoli la sua attività economica. Vi leggiamo anche un pensiero di Louise Michel, che invece è anarchica e comunarda, che forse ha una sensibilità particolare nei confronti dei cosiddetti uomini progressisti o uomini, chiamiamoli, adesso li potremmo chiamare sensibili al problema femminile o di sinistra, no? Lei dice... pensate che questo è praticamente metà Ottocento, ancora gli uomini più progressisti applaudono all'idea di uguaglianza dei sessi. Ho potuto constatare che, come prima e come sempre, ancora gli uomini, senza volerlo, vuoi per abitudine o vecchi pregiudizi, vogliono sì aiutarci, però si accontentano solo di sembrarlo. Prendiamoci allora al nostro posto e non aspettiamo d'averlo. Ci sono già dei segnali. Like the girls in Belleville rendezvous, I wish that we could somehow freeze the frame, but this isn't the silver screen. No, there's no pause, no. Curtains closed, watching ourselves, oh cinema. Take our positions as the cameras roll. Un altro pezzetto di Clara Zetkin, sì, che parla della donna proletaria, secondo la quale la questione femminile nasce dal bisogno di sfruttamento che costringe il capitale a ricercare continuamente forza lavoro sempre più a buon mercato. Così anche la donna proletaria viene inserita nel meccanismo della vita economica dei nostri giorni, viene trascinata nell'officina e costretta alla macchina. È entrata nella vita economica per portare un po' d'aiuto al proprio marito. Il modo di produzione capitalistico l'ha trasformata in una sleale concorrente. Certo, c'è anche tutto un femminismo, chiamiamolo così, borghese in questo periodo, che ha una sensibilità acuta rispetto alla soggezione a cui la donna è sottoposta e rivendica spazi. Però anche il femminismo borghese, chiamiamolo così, è sempre improntato alla ricerca di svincolarsi dalla sudditanza e di realizzarsi direttamente, sia economicamente sia nelle manifestazioni di realizzazione personale, quali possono essere scrivere, leggere, poter fare, realizzarsi come persona, la famosa stanza tutta per sé, no? Però non è ancora stato posto il problema della struttura socio-economica di base e dell'analisi di un genere oppresso e di un genere oppressore. Mm. Adesso facciamo un piccolo break con la parentesi di Elisabetta e dopo la parentesi inizieremo la seconda parte sul femminismo degli anni 70. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Il sapere è politico. La settimana scorsa la trasmissione televisiva Striscia la Notizia ha denunciato, tra virgolette, che alcune farmacie danno la pillola anticoncezionale senza ricetta medica, dicendo che questo è molto grave per la salute della donna, dato che dovrebbe essere un medico a dover decidere se e come dare l'anticoncezionale. Detto così sembrerebbe logico. Il medico è un esperto, è lui che decide come, quando, se dare una medicina. Invece così non è. Un'impostazione di questo tipo veicola una serie di concetti a cui siamo assuefatte e che invece sarebbe meglio indagare criticamente. Il legalismo, per cui una cosa è buona solo se è formalmente ineccepibile e burocraticamente corretta. Va da sé invece che se una donna prende un tipo di pillola abitualmente è inutile che si presenti ogni volta con la ricetta. Ma va da sé anche che i medici non sono affatto neutri nel loro operare e che decidono cosa dare e cosa non dare in base a protocolli, abitudine, credo religioso, input delle case farmaceutiche, indicazioni socio-economiche e direttive politico-sociali. E noi siamo assolutamente indifese. Poi la delega, per cui questo sistema sociale, che altro non è che il risultato di scelte del modello produttivo, ci spinge continuamente alla delega, cerca in tutti i modi di convincerci che ci dobbiamo affidare a qualcuno che decide per noi quello che è buono e quello che non lo è. E poi la demonizzazione dell'autonomia, per cui decidere di se stesse è perlomeno avventato, rischioso, frutto di ignoranza, improvvisazione. Sarebbe quindi il caso che ricominciassimo a riappropriarci della conoscenza del nostro corpo, perché ognuna di noi dovrebbe arrivare alla comprensione di cosa le fa bene e cosa le fa male. Dovrebbe decidere da sola del proprio percorso fisico e mentale. E questo può essere fatto solo in luoghi di donne, in auto-organizzazione e autonomia, fuori dalle strutture dello Stato, che allo stesso tempo però è tenuto a fornire il servizio esclusivamente tecnico e gratuito, che noi vorremmo richiedere e se lo vorremmo, perché il sapere e la conoscenza sono politici. Ciao! Thank you. Allora, passiamo agli anni 70. Che cosa succede negli anni 60 e poi negli anni 70? Succede che c'è un capovolgimento nell'approccio all'oppressione delle donne. Cioè, in effetti, non si parla più di questione femminile, ma si parla di oppressione delle donne. Cioè, c'è una struttura socio-economica che è il patriarcato, che è legata strettamente alla struttura socio-economica in questo momento del capitale e in questo momento specifico dove siamo noi nella configurazione neoliberista, questo è un inciso, che ha una necessità nella divisione sessuata del lavoro. Cioè, a questa configurazione socio-economica necessita la divisione dei ruoli, la divisione sessuata del lavoro, necessita di un controllo forte del lavoro di cura e riproduttivo, che è un lavoro non riconosciuto, non pagato, ma strutturalmente fondante per tenere in piedi la configurazione economica, perché si preoccupa di ricostituire, di produrre, perché col lavoro riproduttivo noi facciamo le persone, di produrre forza, la forza lavoro materialmente e di fare in modo che questa forza lavoro possa essere sfruttata il più possibile. Questa configurazione, per ottenere il maggior utile possibile dalla divisione sessuata, prevede un genere dominante e un genere dominato, e è questa la grande differenza fra oppressione di genere e questione femminile. Che cosa significa poi? Che nel momento in cui c'è un genere oppresso, si individua un genere oppressore, e nel momento in cui c'è un genere oppressore non c'è più possibilità di avere rapporti con chi ci opprime. Adesso vi leggiamo degli stralci da un articolo di Christine Delphi del maggio 2004 dal titolo Ritrovare lo slancio del femminismo. Negli anni 70, i media hanno fatto la scelta dell'antifemminismo con campagne che propongono un'immagine negativa delle femministe, racchie e frustrate, anti-uomini, tutte lesbiche. Ma l'arma più efficace è il martellamento sull'idea che tutto è ormai risolto, non resta altro da fare. Parlare di uguaglianza realizzata non è solo una menzogna, ma un veleno che entra nell'animo delle donne e distrugge la loro stima in se stesse, la convinzione spesso fragile di essere individui completi e non a metà. Una delle sfide del femminismo attuale consiste nel fare chiarezza su questo punto, nel dimostrare che in nessun paese e in nessun rapporto sociale chi domina rinuncia di buon grado ai propri privilegi. Bisogna spingere le donne alla lotta e per questo, ed è forse la cosa più difficile, convincerle che valgono. E infatti proprio per questo ci vogliamo confrontare sulla situazione attuale, sul fatto che proprio in questo momento storico c'è un trascinamento molto forte dal femminismo al femminile. c'è un tentativo di risolvere la questione, diciamo il conflitto fra i sessi in maniera civile, con un sereno confronto. Però questo non è casuale, fa parte di un disegno preciso di questo momento del sistema, che il sistema ha scelto in questo momento storico. Perché? Perché questa stessa operazione la sta facendo nel sociale, con i lavoratori e le lavoratrici, i disoccupati e le disoccupati, i precari e le precarie, tutti gli oppressi e le oppresse, che dovrebbero trovare una soluzione alla loro condizione in un confronto civile con chi detiene le redini comunque del potere o comunque con le istituzioni, tutto in nome di risollevare il paese da una presunta crisi in cui l'economia è caduta e in cui servono gli sforzi comuni di tutti e di tutte. E questa è il corrispondente di questa posizione nel femminismo, è il confronto sereno fra i sessi, la ricomposizione delle differenze, il riportare, come si vuol far dimenticare nel sociale, che esistono le classi, che esiste una classe dominante, che esistono gli oppressi, esistono le classi dominate, e che l'unica strada per uscire da una situazione come questa è la lotta di classe. Così nel femminismo si vuole far dimenticare l'oppressione di genere, si vuole ricondurre tutto ad un confronto fra i sessi, si recupera il maschile come genere disponibile ad un confronto, tant'è vero che adesso c'è un mare di tamburellamento sul fatto che ci sono gli uomini che sono anche loro sfruttati, che sono anche loro violenti, cioè che subiscono anche loro violenza, che anche le donne sono violente, che anche i poveri padri si trovano in difficoltà economiche, che i figli vengono dati sempre alle mogli. È stata fatta la PAS, che è questa sindrome d'alienazione parentale, che è gravissima perché praticamente le donne farebbero di tutto per mettere in cattiva luce i padri e quindi per tenersi i figli. C'è un quadro complessivo che tende a far completamente dimenticare che c'è un genere oppresso e un genere oppressore, e confonde l'aggredita con l'aggressore. Il separatismo non è passato di moda, tutt'altro. Quando è stato inventato, nel 1970, quello del movimento di liberazione delle donne ha scioccato l'intera società, comprese le femministe della generazione precedente, perché il separatismo è nato da una rottura teorica che rimette in discussione le precedenti analisi sulla subordinazione delle donne. Non si parla più di una virgolette condizione femminile di cui tutti, donne e uomini, partiremmo allo stesso modo, ma dell'oppressione delle donne. Ottenere nuove leggi non era la preoccupazione principale del movimento di liberazione delle donne. Il suo scopo era più ambizioso, più utopico. Le leggi non sono state il positivo sottoprodotto di un lavoro gratuito, privo di finalità. Le leggi sono state il positivo sottoprodotto di un lavoro gratuito, privo di finalità concrete e immediate, come la ricerca di base. E se un sottoprodotto è nato, è anche perché non era lo scopo ultimo, o piuttosto perché si mirava più in alto. Questa ambizione irrealistica, che si permetteva di mettere tra parentesi la realizzazione immediata, ha prodotto un tale slancio che alcune cose sono poi state ottenute in concreto. Quindi sabato 1° marzo vi aspettiamo alla sala del tè al fronte del porto, la sala del tè del porto fluviale, alle ore 18, per discutere su quello che sta avvenendo, cioè sul trascinamento che è in atto del concetto dell'oppressione delle donne verso una rinnovata questione femminile, e per discutere sul separatismo, che è sempre uno strumento, una necessità di tutte e tutti coloro che portano avanti una lotta contro le oppressioni che hanno delle componenti trasversali. Tant'è vero che è una modalità attuata anche da componenti che non sono femministe, che non sono state femministe, come il Black Panther Party. È una difesa, una zona franca, una garanzia di riconoscimento, una forza. Anzi, il separatismo oggi è la dimensione di classe della lotta femminista e lesbica. Quindi vi aspettiamo sabato 1 marzo alle ore 18 al Porto Fluviale. A fra poco con la rubrica di Dennis. Ah, e dimenticavo, e anche per parlare e organizzare le azioni per il prossimo 8 marzo. She's found on the Brooklyn Bridge and she's truly at home. Home. Her step has a whole new spring. Big bright lights of the city are shining for her. There's a thirst in her eyes and her heart. Though she thinks to look back. Right, she won't. So no pause, no rewind. No pause, no rewind. Come tutti gli ultimi mercoledì del mese, c'è la rubrica di Dennis, quell'asterisco, che non hanno il genere ma hanno la classe. E come tutti gli ultimi mercoledì del mese, il contributo è sempre molto pungente. I contributi di Dennis sono caratterizzati da questo, sono sempre delle così stilettate, come si dice. Questo si intitola Verso la fine delle politiche della rispettabilità. Una donna sessualmente attiva, che parla in maniera aperta e non morbosa di questo aspetto della sua vita, viene prontamente etichettata come non donna dalle altre. Quella non è una donna, è una femmina. È una frase che credo di aver sentito un miliardo di volte. Una che rovina la categoria perché non aderisce al ruolo di genere che le hanno confezionato su misura. Spesso persone LGBT si affrettano a denigrare il pride e la visibilità, le stesse cose che gli consentono rispetto a qualche secolo fa un'esistenza meno nascosta. Una persona trans è spinta ad adeguarsi a modelli di mascolinità e femminilità più irraggiungibili di quelli riservati ad una persona cis, perché deve provare, virgolette, il suo genere. Ma per molti e molte cis il pensiero di fondo è che questo non sia valido a prescindere, con o senza prove, ammesso che esistano beato cis sessismo. Qual è stata la prima donna nera a non cedere il suo posto protestando contro la segregazione razziale sugli autobus? Rosa Parks. Sbagliato. Si chiama Claudette Colvin. Se ne restò fermamente seduta ben 9 mesi prima, ma era quindicenne, troppo scura di pelle. La sua famiglia viveva nella parte più povera di Montgomery e rimase incinta poco dopo senza sposarsi. Una figura poco sponsorizzabile per il Civil Rights Movement o qualsiasi altro movimento sociale. Quello che hanno in comune tutti questi esempi sono le politiche della rispettabilità. Le politiche della rispettabilità sono quelle politiche che lavorano per modificare l'immagine di un gruppo sociale oppresso, facendogli assumere i connotati che sono considerati accettabili dal gruppo sociale oppressore, cioè dalla cultura dominante. L'approccio emerge quasi naturalmente. Quando ti etichettano come altro, la tua prima idea è di rispondere che sei uguale. Allora chi hai di fronte ti risponde: ok, dimostramelo. È un tentativo di asserire la propria dignità di esistenza, ma non per questo meno fallace. Perché? Una comunità che finisse per rispondere in quella maniera non necessariamente farebbe la cosa giusta, poiché nel farlo potrebbe appoggiare valori orribili, anche e soprattutto quelli alla base della propria oppressione, che non è per forza una soltanto. cosa che non andrebbe confusa con una qualunque attività di rinforzo della normatività esistente da parte di un gruppo dominante. Per Dio, un oppressore si chiama così perché opprime, e non si può fare un calderone gigante in cui infilare le responsabilità e renderle tutte uguali. Non lo sono. Per chi è oppresso o oppressa, si tratta di una forma, anche inefficace e anche controproducente, di difesa, mentre il dominio attacca e basta. Se le politiche della rispettabilità nascono come regole, linee guida sociali, culturali, lavorative, sessuali, artistiche, eccetera, da seguire per divenire umani, allora è automatica l'implicazione che chi fa questa richiesta non appartenga all'umanità e che debba in qualche maniera meritarsela, come se non fosse già sua e gli fosse invece negata da altri. È proprio questa idea che va combattuta, che si debba audizionare per farsi riconoscere la capacità di essere se stessi, ad agire in una maniera ritenuta non standard. Nessuno dovrebbe essere accettato o approvato, men che meno come modello da seguire per tutti coloro con cui il soggetto condivide delle caratteristiche. Ad un essere umano bianco, maschio, abile, eterosessuale e cisgender si riconosce il diritto all'unicità, ad essere individuo. Il resto del mondo è obbligato ad essere in qualche modo rappresentativo della sua categoria. Un comportamento atipico può diventare un'emarginazione ulteriore, stavolta dai propri simili, se ritenuto vergognoso per la comunità tutta. Tali politiche, diffuse ma non per questo meno elitarie, alienano il target di soggetti che vorrebbero liberare dal resto della società, rendendolo cattivo e responsabile in una maniera che con altri gruppi non ha luogo. In più si prefigurano irrealisticamente di raggiungere uno status che non verrà mai autenticamente raggiunto, fin tanto che sarà concesso, in quanto i termini di una concessione li decide chi concede. In questa maniera nessun obiettivo potrà mai essere portato a termine, perché il gruppo dominante continuerebbe perennemente ad alzare l'asticella, rendendo impossibile arrivare a superarla. Come oppressi e oppresse e militanti per una società di uguali, è necessario mettere da parte strategie come questa, perché non saranno mai rivoluzionarie. Il loro scopo è privare i soggetti della loro capacità destabilizzante di poter minacciare l'esistente, e sono esse stesse oppressive, perché li privano di autonomia e autodeterminazione nel nome della pubblica immagine. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty, it trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. When you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? 'Cause things are gonna change so fast. E vi volevamo dire che le rubriche di Dennis le potete trovare sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org, e ci potete scrivere anche, se volete, qualsiasi tipo di osservazione, sì, all'email coordinamenta@autistiche.org. Boys get discovered as winter melts. Flowers come e leggendo il contributo di Dennis, per esempio, mi sono venute in mente tutta una serie di osservazioni, perché questo contributo, che è fatto per quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, E vale anche comunque per le donne, no? Perché per esempio l'emancipazionismo non è altro che il tentativo che le donne vogliono attuare, mettere in atto, di essere uguali al genere dominante, di farsi accettare e di mettere in atto tutta una serie di modalità per essere adeguate alla struttura sociale di questa società. Allora, nel momento stesso in cui mettono in atto tutta questa serie di meccanismi, dimenticano la propria oppressione, tradiscono se stesse, tradiscono anche tutte le altre. Allora, prima di tutto, la prima cosa che mi viene in mente è che, rispetto a un discorso che riguarda appunto le donne in particolare, non bisogna mai dimenticare che l'oppressione di genere si deve necessariamente intrecciare all'oppressione di classe. Altrimenti, perché è vero che l'oppressione sulle donne è trasversale, quindi tutte le donne sono soggette al dominio del genere maschile, quindi sia le donne povere, sia le donne proletarie, sia le donne sottoproletarie, sia le donne borghesi. Però allo stesso tempo non si può dimenticare la collocazione di classe, perché chi è collocata in una configurazione ideologica come una donna borghese è comunque una che è collocata in un ambito cattolico, fascista, socialdemocratico, portano avanti una ideologia che è contro se stessa, ma questo sarebbe il meno, perché sono scelte personali poi alla fine, ma contro anche tutte le altre donne. Quindi sì, è impensabile portare avanti, rispetto all'oppressione di genere, percorsi interclassisti. Cioè, nonostante l'oppressione sia trasversale, la via di liberazione passa attraverso il legame profondo tra genere e classe, e anzi un interclassismo rispetto a questo problema non fa che aggravare l'oppressione stessa. My dear, never change. Perché di fatto non fa chiarezza sui meccanismi che sono alla base dell'oppressione. C'è un altro pezzetto bello che adesso in chiusura vorrei leggervi, sempre di Christine Delphi, dall'articolo di prima, no? Dice: una buona parte dell'energia del movimento femminista è impegnata a far adottare certe leggi e poi a farle applicare. Ma questo non può essere il suo unico scopo. Infatti, la palese diseguaglianza tra uomini e donne, sfruttamento del lavoro domestico che le donne garantiscono al 90%, eccetera, eccetera, è uno sfruttamento che fa parte dell'ossatura del sistema, come la divisione in classi sociali. E la struttura sociale non può essere modificata dalla legge. Quindi è chiaro che nessuna di noi si sognerebbe mai di sputare su una legge come quella, come la 194 e quella dell'aborto legale. Però noi sappiamo che la nostra liberazione non passa di lì. La liberazione delle donne passa attraverso la riappropriazione del proprio corpo, la riappropriazione dei propri saperi e allo stesso tempo la lotta, l'intersecarsi della lotta di genere e classe, perché se non saremo, non saremo libere noi se non saranno libere tutte e tutti. Tell him I need him. Tell him I vi volevamo far partecipi poi di una cosa, cioè che queste annotazioni che noi come coordinamento facciamo, cioè le riflessioni eccetera eccetera, non sono solo il frutto di letture, non sono soltanto il frutto di riflessioni singole, ma cerchiamo di fare delle riflessioni condivise. Tant'è vero che adesso è un po' che non le facciamo, però per esempio questi discorsi che ci siamo fatti oggi nella prima parte della trasmissione sui pezzi di Clara Zetkin, oppure nella seconda sui pezzi di Christine Delphi, li abbiamo fatti in una riunione tra di noi, una riunione di discussione tra di noi sulla famiglia, che è cominciata così sulla famiglia e poi ha preso altre strade, e quindi abbiamo fatto una riflessione a tutto campo sui diversi modi di intendere il femminismo. E noi riteniamo molto importante il fatto di incontrarci, per esempio per un giorno intero, pranzare insieme, discutere di queste cose, pensarci su, e così poi ve le riportiamo. Quindi vi lasciamo con una canzone, poi con la nostra sigla, e vi aspettiamo sabato. Sì, vi aspettiamo sabato, ricordiamo al sabato 1 marzo alla sala da tè del Porto Fluviale, in via del Porto Fluviale 18. Incontro, confronto separato, questione femminile, oppressione di genere. E in seguito la band delle stacchi a spillo. Delle stacchi a spillo. In cui siete tutte e tutti invitati. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Way over yonder. Never was a cornflake girl, thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.